Sono un robot ribelle, spacco tutto e ti prendo a sberle. Sono un robot ribelle, voglio fare la rivoluzione. Sono un robot ribelle, ti prendo a sberle, spacco tutto perché pelle. Tua pelle.